Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, il podcast settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 prodotto da Radio Big World. Iniziamo il nostro breve ma intenso viaggio nel mondo della National Basketball Association partendo da ovest e più precisamente dando un'occhiata alla settimana appena conclusa da una delle due squadre in vetta alla conference, i Golden State Warriors. Avevamo lasciato i ragazzi di Steve Kerr attesi dalla miglior squadra della Lega, i Boston Celtics guidati da un Kyrie Irving tornato in campo con la maschera protettiva malgrado l'infortunio subito al volto. Si trattava della prima di tre sfide consecutive ad est ed ovviamente l'interesse era altissimo considerando che si sarebbero affrontate le due point guard alla guida proprio di due squadre che al momento non sarebbe un'eresia immaginarsi a competere per l'anello di campione del mondo a giugno. Il risultato finale premia meritatamente la squadra di casa, che lavora difensivamente in modo impeccabile sfruttando anche il vantaggio del tifo amico a sostegno. I Warriors vengono tenuti alla cifra clamorosa di appena 88 punti totale, tirando con il 40% dal campo e il 31% da 3, segno di una strategia difensiva attuata dai Celtics alla perfezione. Tutto il quintetto di Boston chiude in doppia cifra, con un Jalen Brown che risplende con 22 punti, la solida prova di concretezza per un Al Horford a 18 ed 11 rimbalzi, ed un Kyrie Irving che può permettersi una serata al tiro da 4 su 16, soprattutto con solo 1 su 5 da dietro l'arco, seppur chiudendo con 16 punti. Dalla parte dei Warriors impressiona in negativo la pessima gara di Stephen Curry, che chiude con appena 9 punti ma soprattutto 3 su 14 dal campo con 2 triple. Golden State tira piuttosto male, eccetto un Kevin Durant che appare tra i pochi degni di salvarsi. Di sicuro la mini trasferta d'est non si avvia con i migliori auspici, soprattutto guardando al risultato in contemporanea dell'altra grande squadra sulla vetta della Western Conference, quelli Houston Rockets che distruggono i derelitti Phoenix Suns segnando la bellezza di 142 punti, con 21 su 44. 4 di squadra da dietro l'arco, un James Harden da 48 punti ed il rientro finalmente di Chris Paul che in 21 minuti mette insieme 10 assist ed 11 punti. Per la squadra allenata da Steve Kerr la sfida seguente non appare certamente agile, considerando che si trova in casa di una delle squadre più in forma del momento, quei Philadelphia 76ers reduci dalle vittorie di Los Angeles, la seconda delle quali contro i Lakers, con un Embiid ancora una volta strepitoso da 46 punti e 15 rimbalzi, e comunque qualche sera prima contro i Clippers non era stato da meno a livello di impatto anche statistico. I giovanissimi Sixers guidati da un Ben Simmons stellare appaiono ben decisi a vendicare la sconfitta subita qualche giorno prima proprio in casa dei campioni in carica, dove tutto sommato si erano mantenuti in partita prima della classica ed inevitabile imbarcata del terzo quarto in pieno stile Golden State Warriors. Ed infatti Golden State viene letteralmente travolta dalla strepitosa voglia di fare bene dei 76ers, subendo la bellezza di 74 punti totali nella prima metà di gara, con un primo quarto vinto da Philadelphia per 47-28. Simmons, Embiid e Redick sono assolutamente in serata, coadiuvati da quello che al momento voterei come giocatore più migliorato dell'anno e non solo per le statistiche, un Robert Covington che chiuderà la sua partita con 5 triple e per il quale a tratti il canestro appare davvero una vasca da bagno. Sembra essere in procinto di arrivare la seconda sconfitta consecutiva per i campioni del mondo, il che rappresenterebbe quantomeno un piccolo campanello d'allarme, considerando quanto poco siano abituati negli ultimi anni a perdere in due gare consecutive. Ma la squadra che è di Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green sembra piuttosto tranquilla e rientra in campo lavorando a testa bassa senza apparentemente guardare troppo al punteggio. Il terzo quarto si conclude incredibilmente vinto dai campioni per 47-15, i quali non solo riescono a ribaltare le sorti di una gara apparentemente già scritta, ma si permettono di scavare un vantaggio importante destinato ad essere gestito per tutto l'ultimo periodo, per una vittoria in trasferta conclusiva per 124-116. Stephen Curry ancora una volta incredibile, strepitoso nell'essere decisivo attraverso fiammate di tiro uniche destinate a scavare parziali impressionanti e decisivi. La sua partita è statisticamente riassumibile con 35 punti, 11 su 22 dal campo con 4 triple, 5 rimbalzi e 5 assist. Una vittoria quindi non scontata ed indubbiamente non facile per come si era messa in avvio, per una squadra che ancora una volta dimostra quanto la superiorità possa essere anche mentale e psicologica, oltre che tecnica. La notte seguente in back to back e con Kevin Durant a riposo, a proposito proprio di superiorità, è sufficiente elencare le statistiche del solito Steph nella vittoria finale contro i Brooklyn Nets. 39 punti, 11 rimbalzi, 7 assist per lui con 14 su 24 dal campo e 4 canestri da 3. I Warriors segnano 62 punti nella prima metà di partita, offrendo uno show non da poco prima di permettere il rientro parziale di Brooklyn negli ultimi due quarti, insufficiente per evitare una sconfitta per 118-111. Ancora una volta volta da sottolinearsi la forza mentale di un giocatore capace di trascinare la sua squadra segnando 74 punti in due serate consecutive, in trasferta ad est, in colpo di reni dopo una nottata difficile farcita con la sconfitta di Boston. Anche questo è Stephen Curry, ed è anche grazie a lui che Golden State è probabilmente già nel firmamento delle migliori squadre nella storia del gioco, seppur ancora in tempo per migliorarsi, perché di tempo per vincerne ancora ce n'è appunto tantissimo. Comunque, sempre guardando al vertice della classifica d'Ovest, nella seconda gara di Chris Paul dal rientro, la terza totale della sua stagione a Houston, l'ex playmaker dei Clippers continua a non mostrare particolari difficoltà nell'inserirsi nel gioco di D'Antoni, con 17 punti, 6 assist, 6 su 11 dal campo in 24 minuti. Houston batte così anche Memphis, grazie ad una prova corale e dal solito James Harden da 29 punti, e sosta, al momento in cui stiamo registrando, che è solito mercoledì pomeriggio, in testa alla conference appaiata, come già detto, con i Golden State Warriors, con un totale di 13 vittorie e 4 sconfitte. Nessuna novità sostanziale da sottolineare nel resto della classifica di Ovest, se non il terzetto ampiamente da playoff con 10 vinte e 7 perse, che vede i Timberwolves con lo stesso record di Portland e dei sorprendenti Denver Nuggets, i quali stanno assolutamente sorprendendo un po' tutti rispetto alle aspettative iniziali. Da segnalare la seconda tripla doppia in carriera per Lonzo Ball nella vittoria dei Lakers proprio contro Denver di domenica notte. Il ragazzo continua a non tirar benissimo in questa partita, chiude con 5 su 13 dal campo per un totale di 11 punti, ma consegna altrettanti 11 assist e soprattutto prende la bellezza di 16 rimbalzi, assolutamente non una cosa da poco per una teorica point guard. Los Angeles manda tutto il quintetto in doppia cifra con 24 punti da un Randle proveniente dalla panchina e 18 di un Clarkson sempre alzatosi dal pino. Al momento, per quanto il record dei Lakers sia sotto il 50% di vittorie, c'è da ammettere che la squadra sta dimostrando una struttura giovane interessante ed una costruzione sostanzialmente ben orchestrata in una stagione che potrebbe seriamente funzionare da apripista per un ritorno tra i protagonisti della Lega. L'appeal della maglia giallo-viola sembra essere quindi in netta risalita, a prescindere dalla storia che la maglia stessa porta con sé, anche e comunque a livello di spettacolo offerto sul campo in questo avvio di stagione. Ed era qualche anno che comunque mancava il piacere di veder giocare i Lakers, seppur ancora la squadra sia tanto acerba quanto discontinua. Intanto ci troviamo di fronte a quella che a livello di calendario appare come la prima pausa della stagione, inusuale rispetto ai ritmi a cui siamo abituati, ma primo segnale di effetto dell'avvio anticipato della regular season. Come abbiamo già detto, stiamo registrando di mercoledì pomeriggio come nostra consuetudine. Nella notte tra giovedì e venerdì le partite in programma saranno clamorosamente zero. Un po' di riposo per tutti, quindi, considerando comunque le sfide di sicuro interesse previste per mercoledì notte, come quella tra Golden State ed un Oklahoma City che continua a non trovare continuità, presentando risultati assolutamente non sufficienti per stare tra le prime 8 squadre ad Ovest al momento. Sconfitti ad esempio per 117 a 107 dai Pelicans, malgrado la tripla doppia del solito Westbrook da 22 punti, 16 assist e 16 incredibili rimbalzi. Anche 26 punti di Anthony, 19 di George, accompagnati anche dai 15 di Steven Adams, ma subendo tremendamente un Anthony Davis da 36 punti e 15 rimbalzi in una serata piuttosto normale per un Cousins da 18 punti. Da segnalare tra l'altro, sempre restando per un attimo ad Ovest, l'esordio stagionale anche di Rajon Rondo, che nelle prime gare a New Orleans si sta attestando su una media di 6 punti e 6 assist per gara in appena 20 minuti di impiego. Ma andiamo brevemente a guardare anche alla Eastern Conference. Avevamo già accennato ai Boston Celtics che dominano la conference stessa e ad un Kyrie Irving che è rientrato con un mascherone di plastica e che si è pure permesso di giocare una partitina delle sue malgrado la complicazione del supporto protettivo, chiudendo con 47 punti nella sfida vinta contro Dallas con una serie di canestri decisivi nel finale ed uno spettacolare 5 su 7 da dietro l'arco. Una dimostrazione ulteriore degli attributi del neo numero 11, leader di una squadra che continua a stupire per solidità in entrambi i lati del campo e per la crescita esponenziale dei già citati Jalen Brown e del rookie Tatum. Salgono prepotentemente in classifica intanto, contemporaneamente a tutto ciò, i Toronto Raptors del solito duo DeRozan Lowry, approfittando della sconfitta di Detroit contro Cleveland per balzare al primo posto utile dietro ai Celtics. Proprio al momento in cui stiamo registrando, LeBron e compagni vengono da una striscia aperta di 5 vittorie consecutive e sembrano prepotentemente risalita malgrado un Derrick Rose fuori per infortunio momentaneo. LeBron continua a portare avanti una stagione stellare che lo vede attorno ad una media di quasi 31 punti per gara nelle sue ultime 10 partite, attestandosi stagionalmente sui 28 punti, 8 assist e 8 rimbalzi per gara. Soprattutto sembra che la sua capacità di trascinare i compagni stia dando i frutti sperati in una fase in cui la squadra di Tyronn Lue sembra impegnata in un'autentica scalata nella classifica di conference. Da sottolineare stavolta l'apporto fondamentale di colui che, numeri alla mano, rappresenta ad oggi l'acquisto più efficace di un mercato estivo importante, Jay Crowder arrivato da Boston. Del resto, per un Wade che sembra essere entrato nella fase definitivamente di non ritorno della sua carriera, giocando da comprimario e partendo dalla panchina, un Isaiah Thomas in attesa di esordio e un Derrick Rose ancora ai box, come già detto, l'apporto del numero 99 appare talvolta decisivo, proprio come nella vittoria contro Detroit, dove ha contribuito con 18 punti in 26 minuti. Cleveland ha superato in classifica, al momento, quella che per il sottoscritto resta una delle squadre più piacevoli da vedere in questa stagione, quei Philadelphia 76ers di un Embiid scatenato e di un Simmons che risulta veramente impressionante ogni volta che lo si vede orchestrare un'azione di gioco o prendersi delle scelte con la palla in mano. Giocatore potenzialmente onnipotente di prospettive illimitate. Attenzione comunque perché Joelone viaggia attorno ai 22 punti e 11 rimbalzi e poco meno di 2 stoppate per gara, ma un apporto decisivo lo sta dando anche il tiro perimetrale di un veterano come JJ Redick, perfetto nel coadiuvarsi con il già precedentemente citato Robert Covington. Sono 15 i punti per gara per l'ex Clippers. La squadra diverte, rientra ampiamente nelle prime 8 squadre di conference e nessuno sembra ricordarsi che continua a mancare all'appello la prima scelta Markelli Fultz, ancora fuori per infortunio, e delle sole 2 gare giocate per il futuro partente Jahlil Okafor, vecchia speranza rapidamente finita nel dimenticatoio all'aumentare progressivo delle prestazioni di Embiid e di un Dario Savic che da specialista si attesta su un contributo di quasi 10 punti e più di 5 rimbalzi per gara. Benissimo. Anche questa puntata di NBA Week giunge al termine. Colgo l'occasione per rinnovarvi i nostri appuntamenti, ricordandovi di seguire sempre la nostra pagina Facebook che si chiama appunto NBA Week per aggiornamenti e commenti dell'ultimo minuto. Invece, se volete ascoltarci, potete farlo tutti venerdì sera alle ore 21 sul flusso streaming di Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto anche per questa settimana, ci risentiamo alla prossima con NBA Week.